Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoj. Sempre nelle medesime condizioni, sempre senza prendere alcun provvedimento per il divorzio, Vronsky e Anna trascorsero tutta l'estate e una parte dell'autunno in campagna. Fra loro era stato deciso che non sarebbero andati in nessun posto, ma quanto più vivevano soli, in particolar modo in autunno e senza ospiti, entrambi sentivano che non potevano resistere a quella vita e che dovevano cambiarla. Pareva che la loro vita fosse la migliore possibile. C'era ogni agio, c'era la salute, c'era la bambina, e tutte e due avevano di che occuparsi. Anche senza ospiti, Anna si occupava egualmente di sé e si dedicava molto alla lettura. Leggeva romanzi e libri seri che andavano di moda, ordinava tutti i libri dei quali si parlava positivamente nei giornali stranieri e nelle riviste che lei riceveva, e li leggeva sino in fondo con quell'attenzione per quel che si legge che di solito si ha solamente nella solitudine. La occupava anche l'organizzazione dell'ospedale. Non soltanto aiutava, ma organizzava e ideava molte cose lei stessa. La sua cura principale era tuttavia lei stessa. Lei stessa per piacere a Vronsky e sostituire per lui tutto ciò che lui aveva lasciato. Vronsky apprezzava il suo sforzo, divenuto l'unico scopo della vita di lei, non soltanto di piacergli, ma di servirlo. Eppure, insieme e con questo, sentiva anche il peso delle reti amorose in cui lei cercava di avvolgerlo. Col passare del tempo, sempre più saldamente si vedeva avvolto in queste reti e sempre più aveva voglia non proprio di uscirne, ma di provare se non ostacolassero la sua libertà. Se non fosse stato per questo desiderio, che si faceva sempre più forte, di sentirsi libero, di non avere una scenata ogni volta che doveva andare in città, a un congresso, alle corse, Vronsky sarebbe stato perfettamente soddisfatto della sua vita. La parte che si era scelto, la parte del ricco proprietario terriero, d'uno di quelli che dovevano formare il nucleo dell'aristocrazia russa, non soltanto gli andava pienamente a genio, ma adesso, dopo che aveva vissuto così già mezzo anno, gli procurava una soddisfazione sempre crescente. Sicché, dal modo in cui conduceva gli affari, era chiaro che non aveva dissestato, bensì accresciuto il suo patrimonio. Nel mese di ottobre c'erano le elezioni nobiliari nel governatorato di Kazin, dove si trovavano i possedimenti di Vronsky, di Sviaski, di Kosnichev, di Oblonsky e una piccola parte di quelli di Levin. Già il giorno prima, fra Vronsky e Anna era successo quasi un litigio per quel viaggio in progetto. Era il periodo d'autunno più noioso e pesante in campagna, e perciò Vronsky, preparandosi a lottare, con un'espressione severa e fredda che non aveva mai avuto prima con Anna, le annunciò la sua partenza. Con sua meraviglia, Anna prese tuttavia questa notizia molto tranquillamente e domandò soltanto quando sarebbe tornato. Lui la guardò con attenzione, senza capire quella calma. Al suo sguardo, lei sorrise. Lui conosceva questa capacità di Anna di rifugiarsi in se stessa e sapeva che ciò accadeva soltanto quando lei si era risolta a qualcosa per conto suo, senza comunicargli i suoi progetti. Lui aveva paura di questo, ma desiderava tanto evitare una scenata che fece finta di credere, e in parte sinceramente credette, in quel che voleva credere, nella ragionevolezza di lei. «Spero che non ti annoierai». «Spero». «Ieri ho ricevuto una cassa di libri da Gautier. No, non mi annoierò», disse Anna. «Se le piace prendere questo tono, tanto meglio», pensò lui. «In ogni caso sarebbe lo stesso». E così, senza pretendere una spiegazione sincera, partì per le elezioni. Era la prima volta dal principio della loro relazione che si separava da lei senza che si fossero spiegati sino in fondo. Da un lato questo lo inquietava, dall'altro lato trovava che era meglio. In principio ci sarà come adesso qualcosa di poco chiaro, di nascosto, ma poi lei si abituerà. «Comunque io posso cederle tutto, ma non la mia indipendenza maschile», pensava Vronsky. Thank you. In settembre, Levin andò a stare a Mosca per il parto di Kitty. Viveva già da un mese a Mosca senza far nulla, quando Sergei Ivanovich, che aveva una tenuta nel governatorato di Kazin e si interessava molto alle imminenti elezioni, si accinse a partire per parteciparvi. Egli invitò ad andare con lui anche il fratello, che aveva un voto per il distretto di Selesnevsk. Levin era ancora indeciso, ma Kitty, la quale vedeva che lui a Mosca si annoiava e voleva che andasse, ordinò a sua insaputa un uniforme nobiliare che costava 80 rubli. E questi 80 rubli, sborsati per l'uniforme, furono la ragione principale che spinse Levin a partire. Egli si recò a Kazin. Levin era molto cambiato da quando si era sposato. Era paziente e, se non capiva perché tutto questo fosse disposto così, si diceva che, non sapendo tutto, non poteva giudicare, che probabilmente così doveva essere, e cercava di non indignarsi. Anche ora, assistendo alle elezioni e partecipandovi, cercava di non giudicare, di non contestare, ma di capire, per quanto era possibile, la cosa di cui si occupavano con tanta serietà e passione quelle brave e oneste persone che lui stimava. Da quando si era sposato, a Levin si erano rivelati tanti aspetti nuovi e seri che prima, per via del suo atteggiamento superficiale, gli sembravano insignificanti, che anche nella questione delle elezioni egli supponeva e ricercava un serio significato. Sergei Ivanovich gli aveva spiegato il senso e l'importanza del rivolgimento che le elezioni avrebbero dovuto operare. Il maresciallo del governatorato Snetkov era un uomo d'antico stampo nobiliare che aveva sperperato un patrimonio immenso, un buon uomo, onesto nel suo genere, ma che non capiva affatto le esigenze dei tempi nuovi. In tutto egli teneva sempre le parti della nobiltà, contrastava apertamente la diffusione dell'istruzione pubblica e attribuiva un carattere di classe a quello zemsvo che avrebbe dovuto assumere così enorme importanza. Al suo posto occorreva mettere un uomo nuovo, moderno, attivo, e fare in modo di ricavare da tutti i diritti elargiti alla nobiltà, non in quanto nobiltà, ma in quanto elemento dello zemsvo, tutti quei vantaggi di autonomia che se ne potevano ricavare. E perciò tutta la questione aveva una grande importanza. Come maresciallo, al posto di Snetkov, si pensava di mettere Sviaschi, o ancor meglio Nevedovsky, un ex professore, uomo straordinariamente intelligente e grande amico di Sergei Ivanovich. Il quarto giorno, intorno al tavolo del governatorato, si fece la verifica delle somme di denaro del governatorato. E qui, per la prima volta, avvenne l'urto del nuovo partito con il vecchio. La commissione incaricata di verificare le somme riferì all'assemblea che le somme erano intatte. Il maresciallo del governatorato si alzò in piedi per ringraziare la nobiltà della fiducia e versò qualche lacrima. I nobili lo acclamavano a gran voce e gli stringevano la mano. Ma nel frattempo un nobile del partito di Sergei Ivanovich disse d'aver sentito che la commissione non aveva verificato le somme, ritenendo che la verifica fosse un'offesa al maresciallo del governatorato. Uno dei membri della commissione imprudentemente confermò la cosa. Allora un signore molto piccolo, molto giovane d'aspetto ma molto velenoso, si mise a dire che il maresciallo del governatorato sarebbe stato lieto di render conto delle somme e che l'eccessiva delicatezza dei membri della commissione lo privava di questa soddisfazione morale. Allora i membri della commissione ritrattarono la loro dichiarazione e Sergei Ivanovich si mise a dimostrare, secondo logica, che dovevano o dichiarare d'aver verificato le somme o ammettere di non averle verificate, e svolse dettagliatamente questo dilemma. A Sergei Ivanovich ribatté l'oratore del partito avversario, poi parlò Sviaschi e poi di nuovo il signore velenoso. I dibattiti durarono a lungo e finirono in nulla. Levin era stupito che discutessero tanto di questo, soprattutto perché, quando domandò a Sergei Ivanovich se supponesse che le somme fossero state dilapidate, Sergei Ivanovich rispose: «Oh no, è una persona onesta, ma bisogna dare uno scossone a questo sistema antiquato di paternalistica amministrazione familiare degli affari dei nobili». Il quinto giorno vi furono le elezioni dei marescialli distrettuali, che in alcuni distretti furono piuttosto tempestose. Nel distretto di Selesnevsk fu eletto all'unanimità, senza ballottaggio, Sviaschi, e da lui si fece un pranzo. Sviaschi prese sotto braccio Levin e andò con lui verso i suoi. Ormai non era più possibile evitare Vronsky. Egli stava con Stepan Arkadyc e con Sergei Ivanovich e guardava proprio verso Levin che si avvicinava. «Molto lieto, mi sembra di aver avuto il piacere di incontrarvi dalla principessa Scerbakaya», disse tendendo la mano a Levin. «Sì, ricordo bene il nostro incontro», disse Levin, e diventando rosso porpora si voltò subito dall'altra parte e si mise a parlare con il fratello. Vronsky ebbe un leggero sorriso e continuò a parlare con Sviaschi, non avendo evidentemente alcun desiderio di entrare in conversazione con Levin. Ma Levin, pur parlando con suo fratello, si voltava continuamente a guardare Vronsky e pensava di che cosa potesse mettersi a parlare con lui per cancellare la propria villania. «Di che cosa si tratta adesso?» domandò infine voltandosi verso Sviaschi e Vronsky. «Di Snetkov, bisogna che rinunci o accetti», disse Sviaschi. «E lui ha accettato o no?» «Qui sta il punto che non fa né una cosa né l'altra», disse Vronsky. «E se rifiuta, chi entrerà in ballottaggio?» domandò Levin sbirciando Vronsky. «Chi vuole?» disse Sviaschi. «Voi?» domandò Levin. «Oh, io certamente no», disse Sviaschi turbandosi e gettando uno sguardo spaventato verso il signore velenoso che stava accanto a Sergei Ivanovich. «E chi allora? Nevedovsky?» disse Levin sentendo d'essersi messo in un pasticcio. Ma fu ancor peggio. Nevedovsky e Sviaschi erano proprio i due candidati. «Io poi, in nessun caso», rispose il signore velenoso. Era appunto Nevedovsky. Sviaschi lo presentò a Levin. «Allora, ti sei lasciato prendere anche tu», disse Stepan Arkadyc ammiccando a Vronsky. «È un po' come alle corse, vien voglia di scommettere». «Sì, è una cosa che prende», disse Vronsky. «E una volta che ci si è messi, si ha voglia di far sul serio. Lotta!» disse accigliandosi e stringendo i suoi forti zigomi. «Che affarista quello Sviaschi! Per lui è tutto così chiaro!» «Oh sì», disse Vronsky in modo distratto. Seguì un silenzio, durante il quale Vronsky, dato che bisogna pur guardare qualcosa, guardò Levin, le sue gambe, la sua uniforme, poi la sua faccia, e notati gli occhi cupi rivolti su di sé, tanto per dire qualcosa, disse: «E come mai voi, che siete un abitante stabile della campagna, non siete però giudice di pace? Non avete l'uniforme di giudice di pace?» «Perché ritengo che il tribunale di pace sia un'istituzione stupida», rispose cupamente Levin, che aveva sempre aspettato l'occasione di mettersi a parlare con Vronsky per cancellare la propria villania del primo incontro. «Io non lo penso, al contrario», disse Vronsky con tranquillo stupore. «È un giocattolo», lo interruppe Levin. «I giudici di pace non ci servono. In 8 anni io non ho avuto nemmeno una causa e quelle che ho avuto sono state risolte alla rovescia. Il giudice di pace è a 40 verste da me. Per una causa di 2 rubli devo mandare un procuratore che ne costa 15. E raccontò che un contadino aveva rubato della farina a un mugnaio e quando il mugnaio gliel'aveva detto, il contadino l'aveva querelato per calunnia. Tutto questo era fuor di luogo e stupido, e Levin stesso lo sentiva intanto che parlava. «Oh, è un tipo originale», disse Stepan Arkadyc con il suo sorriso alle mandorle. «Andiamo però, mi pare che si voti». E si separarono. «Io non capisco», disse Sergei Ivanovich, che aveva notato l'infelice uscita del fratello. «Io non capisco come si possa a tal punto essere privi d'ogni tatto politico. Ecco che cosa manca a noi russi. Il maresciallo del governatorato è nostro avversario. Tu sei suo amico e lo preghi di entrare in ballottaggio. E il conte Vronsky? Non sarò mai suo amico, mi ha invitato a pranzo e non ci andrò, ma è uno dei nostri. Perché farne un nemico? E poi domandi a Nevedovsky se entrerà o no in ballottaggio. Questo non si fa». «Oh, io non ci capisco nulla e sono tutte stupidaggini», rispose cupamente Levin. prima della partenza di Vronsky per le elezioni, avendo riflettuto che quelle scene che si ripetevano fra loro a ogni sua partenza potevano soltanto raffreddarlo e non certo legarlo a lei, Anna si era risolta a compiere tutti i possibili sforzi su di sé per sopportare con calma la separazione. Ma era stata offesa dallo sguardo freddo e severo con cui egli l'aveva guardata quando era venuto ad annunciare la sua partenza, e non era ancora partito che già la calma di lei era svanita. Ripensando poi nella solitudine a quello sguardo che esprimeva il diritto alla libertà, come sempre Anna era pervenuta a una sola cosa: alla coscienza della propria umiliazione. Lui ha il diritto di andare via quando e dove vuole, non solo di andare via, ma di lasciarmi. Lui ha tutti i diritti e io non ne ho nessuno. Ma sapendo questo non doveva farlo. Che cosa ha fatto tuttavia? Mi ha guardato con un'espressione fredda, severa. Si capisce, è una cosa vaga, impalpabile, ma questo prima non c'era, e quello sguardo significa molto. Quello sguardo dimostra che comincia la freddezza. Si era convinta che cominciava la freddezza e sentiva che non poteva fare nulla. In nulla poteva cambiare i suoi rapporti con lui. Esattamente come prima poteva trattenerlo solamente con l'amore, con le sue attrattive. E proprio come prima poteva soffocare il terribile pensiero di ciò che sarebbe avvenuto se lui si fosse disinnamorato di lei, solo con qualche occupazione che la distraesse di giorno e con la morfina di notte. È vero, c'era anche un altro mezzo: non trattenerlo, per questo lei non voleva altro che il suo amore, ma essergli però vicina, mettersi in una posizione per cui egli non l'abbandonasse. Questo mezzo era il divorzio e il matrimonio. E Anna si mise a desiderarlo e decise che avrebbe acconsentito la prima volta che lui o Stiva gliene avessero parlato. Contemporaneamente si ammalò la figlia. Anna si dedicò a curarla, ma nemmeno questo la distrasse, tanto più che la malattia non era pericolosa. Per quanto si sforzasse, non poteva voler bene a quella bambina e lei, d'altronde, non sapeva fingere l'amore. «Allora, come sta Annie?» disse timidamente Vronsky da giù, guardando Anna che gli correva incontro. Era seduto su una seggiola e un domestico gli tirava via uno stivale caldo. «Non c'è male, sta meglio!» «E tu?» disse lui, scuotendosi la roba addosso. Lei lo prese con tutte e due le mani, per una mano, e lo attrasse verso di sé, senza togliergli gli occhi di dosso. Vronsky raccontò delle elezioni, e con le sue domande Anna sapeva spingerlo a parlare proprio di ciò che lo rallegrava: il suo successo. Lei gli raccontò tutto quello che poteva interessarlo di casa, e tutte le sue notizie erano le più liete. «Voglio dire soltanto che possono capitare degli affari indispensabili. Adesso, per esempio, io dovrò andare a Mosca per l'affare della casa. Oh, Anna, perché sei così suscettibile? Non sai che io non posso vivere senza di te?» «Ma se è così», disse Anna con voce improvvisamente cambiata, «vuol dire che tu senti questa vita come un peso. Sì, tu arrivi per un giorno e parti come fanno... Anna, questo è crudele! Io sono pronto a dare tutta la vita!» Ma lei non l'ascoltava. «Se andrai a Mosca ci verrò anch'io, non resterò qui. O ci separiamo o viviamo insieme. Lo sai bene che è il mio unico desiderio, ma per fare questo occorre il divorzio. Gli scriverò. Vedo che non posso vivere così, ma verrò a Mosca con te. È come se tu mi minacciassi, ma non c'è nulla che desideri più che non separarmi da te», disse Vronsky sorridendo. Ma uno sguardo non solo freddo, ma cattivo, lo sguardo dell'uomo perseguitato ed esasperato, brillò nei suoi occhi mentre diceva queste tenere parole. «Se è così, è una sventura», diceva quel suo sguardo. Fu l'impressione di un istante, ma lei non la dimenticò mai più. Anna scrisse una lettera al marito, chiedendogli il divorzio, e alla fine di novembre, separatasi dalla principessa Varvara, che doveva andare a Pietroburgo, andò a stare con Vronsky a Mosca. Aspettando da un giorno all'altro la risposta di Alexei Alexandrovich e quindi il divorzio, essi presero a vivere insieme come coniugi.